giovedì sono qua, monta su, non ci avranno finché questo cuore non creperà di ruggine, di botte o di età. C'è una notte tiepida e un vecchio blues da fare insieme, in qualche posto accosterò quella là. Sarà la nostra casa, ma credo che meriti di più. Ma intanto son qua io e ti offro di ballarci su. È una canzone di 100 anni almeno. Saremo delle star, ma se a noi, con questi giorni fatti di ore andate per un weekend, è un futuro che non c'è, non si può sempre perdere, per cui giochiamoci certe luci, non puoi spegnerle, se un purgatorio è nostro perlomeno. Passa odor di mare, diesel, merda, morte, vita. Il patto è stringerci di più, prima di perderci forse ci sentono lassù. È un po' come sputare via il veleno.